così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla, e così te ne vai. Cosa mi ha preso adesso? Forse mi scriverai, ma sì, è lo stesso. Così vai via, l'ho capito, sai che vuoi che sia, se tu devi vai. Mi sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano. Forse domani correrò dietro il tuo treno, tu non scordarmi mai. Come banale adesso, parliamo ancora dai, ma sì, è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come il Dio, amore mio, non te ne andare. Perché così? No, non è giusto se è così, se te ne vai. Se te ne vai, perché così? Perché finisce tutto qui? Tra poco andrai, un lento l'ultimo oramai. E fare finta che ne so di essere matto, piangere, urlare, dire no, non serve a niente, già lo so, è finito tutto. E se tu caso mai, ma non mi senti adesso, balliamo ancora dai, ma sì, è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio, no, non te ne andare. Ma è così, se te ne vai, se te ne vai, vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento l'ultimo.